Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo della 31esima classifica della qualità della vita realizzata come ogni anno da 31 anni appunto dal Sole 24 Ore. Già i nostri GR24 vi hanno aggiornato ampiamente oggi, e in sostanza c'è un effetto Covid, ma cercheremo di spiegarlo anche nella qualità della vita, che vede penalizzate soprattutto le grandi città. Emblematico il caso di Milano, che per 2 anni era risultata al primo posto, scende di 11 posizioni, ma vale anche per Roma e per altre città grandi, e in parte anche le destinazioni turistiche. C'è una nuova categoria inserita, è lo spazio abitativo per residente, e anche su questo ha modificato in parte la classifica. E poi la regione che ne esce meglio in assoluto è l'Emilia-Romagna, sia come capoluogo regionale Bologna, ma anche in generale come città, capoluoghi di provincia, perché se si escludono le province autonome sono quelle meglio piazzate nella classifica. In questo caso classifica positiva, non certo quella del nostro venerdì. Parleremo poi delle tensioni sul governo, perché è chiaro che insomma, il recovery plan e l'organizzazione della task force, quindi del gruppo di lavoro, dei manager, di chi risponde a chi, e anche, aggiungo io, la vaghezza ancora sulle politiche di intervento, non nel senso che nella vita si possono scrivere i titoli e van benissimo, però poi dopo un titolo c'è un catenaccio, un occhiello, titolo, catenaccio, un testo. Ecco, quello che manca qui è il testo, cioè capire esattamente cosa si intenda fare nei vari interventi. E mi riferisco alle macro aree di intervento, ma andate a vedere quello che ha fatto la Francia, in parte anche la Spagna, ci sono dei dettagli molto chiari su come si procede. E quella però è stato anche l'elemento così scatenante, quella che si chiama con un linguaggio un po' da Prima Repubblica verifica di governo, chiesta da Italia Viva, ma come spesso abbiamo ricordato con una buona approvazione, diciamo così, anche da buona parte del PD. Per quello che riguarda poi gli altri temi, oltre ci occuperemo anche di un tema proprio economico, nel senso che riguarda però la vita anche nostra, a maggior ragione quando siamo in semi o totale lockdown, perché c'è la cosiddetta guerra per lo streaming, sta diventando più che una guerra un insieme di accordi bilaterali, potremmo chiamarli così usando un termine geopolitico. Perché Sky e Amazon hanno annunciato una nuova partnership pluriennale in Europa, per cui dal 14 dicembre chi ha Sky Q, quindi il decoder nuovo, o un abbonamento con Now TV, potrà scaricare l'applicazione Amazon Prime Video. E poi a inizio 2021 chi ha un dispositivo Fire TV di Amazon potrà scaricare l'applicazione Now di Sky. È un accordo incrociato, ma gli altri paesi coinvolti oltre all'Italia sono Regno Unito, Irlanda e Germania. Non è un'offerta, non è commerciale, bisognerà avere entrambi gli abbonamenti, attenzione. Però dice la direzione in cui stanno andando i grandi soggetti dello streaming, e cioè la piattaforma unica, diciamola male, ma per farci capire, anche perché sennò la concorrenza diventa molto forte, è quasi un massacro per gli operatori stessi. E poi avremo l'appuntamento come sempre con Alessandro Platerotti, con ogni lunedì, con Dietro la notizia, e oggi torneremo sulle borse per capire come si è andato il 2020 in quello che è a mio avviso l'elemento principale per valutare un titolo. Spesso non viene ricordato, non è se è un record storico e basta o quanto ha perso, certo che è importante, però il rapporto prezzo-utili attesi è ancora resta l'elemento, il termometro a mio avviso più affidabile, ed è quello che infatti salta quando ci sono le bolle. Il caso clamoroso fu quello della bolla del 2001 di delle dot-com, dove il rapporto prezzo-utile era saltato, era arrivato a 98-120. E ne parleremo per dare anche, iniziare a fare anche un bilancio dell'anno che si sta chiudendo. Su questo vedo molti messaggi sull'anno, diciamo. Dunque, molti sul vaccino. Sì, la Spagna inizia il vaccino il 5 gennaio. Noi, da quello che ho capito, a metà gennaio forse c'è il tentativo di anticiparlo prima dell'epifania. Ma qui ci sono alcuni aspetti. Uno riguarda anche un po' più di trasparenza. Lo dico, allora, se non è che il commissario Arcuri debba pubblicare tutti i bandi, perché alcuni bandi possono essere, se li pubblichi, ci sono informazioni relative a un'azienda quando partecipi a un bando che devono essere tenute riservate. Però un po' più di trasparenza e meno, lo dico al commissario Arcuri, meno così inviti, valutazioni. Ci sono già i virologi, l'Istituto Superiore della Sanità, il Premier Conte che invitano gli italiani ai comportamenti. Dal commissario Arcuri vogliamo sapere come sta andando l'approvvigionamento per i vaccini e anche quando è possibile la trasparenza sui bandi di gara. Ripeto, quando è possibile, perché non puoi pubblicare bandi che mettano a conoscenza di tutti, anche dei concorrenti, dettagli, diciamo, che servono invece all'azienda a partecipare a quella gara. Però un po' più di trasparenza su come stanno andando le cose e meno così, meno atteggiamento didattico, pedagogico, ne abbiamo già tanti. A questo però affianco anche un altro elemento, ha ragione il governatore Zaia a dire attenzione, però senza la collaborazione dei cittadini non ce la facciamo. Io capisco che nelle zone, anche perché vi abito, nelle zone che sono rosse da più di un mese, e penso alla Lombardia, rossa, arancione e anche il Piemonte, posso capire il fatto che come diventi giallo ci sia il desiderio di andare a fare il pranzo al ristorante o di bere qualcosa al bar. Però attenzione che quelle immagini che sono arrivate nel fine settimana non lasciano presagire nulla di buono. Perché lo dico? Perché pochi istanti fa la notizia che Londra, e qui bisogna guardare anche quello che fanno all'estero, senza polemica, per favore, basta dividersi. Alcuni mi scrivono: guardi che lo shopping non è stato forsennato ieri, ho battuto solo 4 scontrini. Per carità, le immagini vanno prese sempre con le pinze. Però avete visto cosa è successo in Germania nel fine settimana, con un giro di vite, il lockdown tedesco era più morbido di quello nostro, però adesso quasi da zona rossa. Pochi istanti fa dalla Gran Bretagna è arrivata la notizia che Londra da mercoledì torna in zona rossa. Questo dopo che era uscita dalla zona rossa il 2 dicembre e quindi da arancione diventa rossa, nuova chiusura di ristoranti, pub e alcuni negozi per ora fino al 23. Ma perché fino al 23? Perché dal 23 in tutta la Gran Bretagna scatta, Londra compresa, un alleggerimento di 5 giorni. Però se andiamo a guardare quello che è successo negli Stati Uniti dopo le aperture, diciamo gli spostamenti per il Thanksgiving, per il ringraziamento, quello che è successo in Germania, una situazione in Veneto che è tutt'altro che sotto controllo, appunto, non voglio che il ministro Arcuri mi faccia la morale, mettiamola così, e voglio che mi racconti il ministro, buonanotte, il commissario, e che racconti come sta andando l'approvvigionamento nella maniera più trasparente possibile. Però allo stesso tempo occorre che anche noi tutti ci mettiamo la mano sulla coscienza, perché se no è quasi certo, guardando quello che succede negli altri paesi, che torneremo con le restrizioni. E oggi valuteremo anche quello che sta decidendo il governo, al di là delle tensioni sulla maggioranza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Dunque, per quello che riguarda le borse, oggi sono tutte positive, più 0,60% in Milano, più 0,70% a Parigi, più 1 Francoforte. Londra invece è ferma, Dow Jones più 0,50%, bene da noi Azimut più 3, Pirelli più 2,60%, Interpump più 2,40%, Prismian più 1,80% come CNH e Generali e Banca Generali, ma anche Fiat, l'1,70% lo guadagna Recordati e Ferrari, l'1,60% Amplifon ed Era e A2A. Fronte opposto, Atlantia perde parecchio, il 5,17%, poi segue Eni, meno 1,80%, Tenaris, meno 1,40%. Beh, Atlantia, mi chiedete, insomma, è entrata anche in asta di volatilità. C'è attesa per il Consiglio di amministrazione di Atlantia, che dovrebbe fissare domani la data per il prossimo Consiglio di amministrazione per la cessione della partecipazione in Autostrade per l'Italia. I mercati sono un po' preoccupati e tesi, perché la cordata di Cassa Depositi e Prestiti dei fondi, secondo le indiscrezioni, valuterebbe Autostrade per l'Italia a 7,5 miliardi, un valore ben inferiore alle aspettative di Atlantia e quindi di Benetton, di una società che valesse fino a 9,5 miliardi. Dunque, notizie di carattere internazionale. Vabbè, sulla Gran Bretagna, sulla Brexit, si è ancora in totale incertezza. Oggi, dopo la decisione di ieri di Boris Johnson e di Ursula von der Leyen di proseguire la trattativa senza nuove date di scadenza, fanno notare da Downing Street, in questo caso, che potrebbe essere una speranza del tentativo comunque di trovare un accordo. Per quello che riguarda Bruxelles, invece, le big tech dovranno assumersi una maggiore responsabilità nella moderazione dei contenuti e nelle loro pratiche concorrenziali, oppure potrebbero incorrere i giganti del web, ma non solo, in multe fino al 10% del fatturato. Questo è un nuovo pacchetto di norme europee per regolare il mercato digitale. Sul recovery, invece, il commissario europeo Gentiloni ha detto: i primi fondi arriveranno, l'idea è quella di avere una prima approvazione del piano e quindi la possibilità di erogare il prefinanziamento del 10%, circa 20 miliardi per l'Italia, nella tarda primavera. I tempi quindi del prefinanziamento potrebbero essere tarda primavera o inizio estate. Poi Gentiloni ha detto: nessuno è in ritardo in questo momento, neanche l'Italia. Ha detto: eravamo leggermente in ritardo per l'approvazione finale, ma ora abbiamo ricevuto una bozza di progetto dagli Stati membri. A gennaio sono sicuro che riceveremo da ogni Stato membro la bozza e poi la versione definitiva. Venendo all'Italia, diamo l'aggiornamento sull'andamento delle domande ai fondi di garanzia. Continuano a crescere, lo segnala l'ABI, siamo arrivati a 118 miliardi per 1.500.000 domande. Di questo la stragrande maggioranza, 1.023.000, sono per i 30.000 euro, quelli garantiti dallo Stato, per un importo che ha superato i 20 miliardi di euro, e 153.000 sono le domande per le garanzie sulle moratorie, per oltre 3 miliardi di euro. Allora, report Istat sulle imprese di fronte al Covid. L'Istat fa notare oggi che il 69% delle imprese è in piena attività nonostante l'emergenza Covid, il 24% è parzialmente aperto, con limitazioni sui tempi, orari, accesso alla clientela, il 7% è chiuso, circa 73.000 imprese quindi, che pesano per il 4% dell'occupazione, hanno dichiarato di essere chiuse, 55.000 di queste prevedono comunque di riaprire, 17.000 no, e stiamo parlando l'1,7% delle imprese e quasi l'1% degli occupati. Due terzi però hanno avuto riduzioni di fatturato rispetto tra giugno e ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2019, e il 30% segnala rischi operativi di sostenibilità. Il 60% delle imprese, 6 su 10, prevede tra dicembre e febbraio un calo di fatturato rispetto al dicembre e febbraio dell'anno scorso. Nel 40% dei casi ci si attende un calo tra il 10 e il 50%, nel 15% tra oltre il 50%, solo il 6% si attendono un calo inferiore al 10%. E l'Istat dice alla fine di questo report: attenzione, ci sono rischi seri per circa il 15% delle imprese, stiamo parlando di 152.000 imprese, soprattutto le microimprese, per un totale di 1.200.000 addetti. E poi il vice ministro dell'economia Misiani ha detto che il governo è orientato a introdurre un ammortizzatore sociale per gli autonomi della gestione separata dell'INPS. E poi sempre invece il ministro Di Maio ha detto che il 2021 sarà l'anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50.000 euro l'anno e che hanno registrato un calo superiore al 33% del loro fatturato. E quindi dovrà essere lo Stato per queste imprese a farsi carico dei contributi che dovranno versare autonomi, partite IVA, appunto, fino a 50.000 euro con 50.000 euro con oltre 33% di calo del fatturato. E poi invece il presidente della Commissione dei Trasporti della Camera, che è Raffaella Paita di Italia Viva, ha detto bene il fatto che vi sia che sia confermata l'ipotesi di uno stanziamento di 500 milioni nella legge di bilancio per il settore aeroportuale. Adesso però chiediamo al governo di prorogare di un anno la cassa integrazione per chi lavora negli o per gli aeroporti. Il governatore, il presidente del Piemonte, Ciro, invece, ha deciso di dare 2.000 euro a ogni maestro di sci per compensare i mancati guadagni causati dallo stop agli impianti, sostenendo che ci mancherebbe che il maestro di sci è un lavoro come altri. Per quello che riguarda invece il cashback, continuano a salire le iscrizioni. I cittadini iscritti ammontano a 4.500.000. E il totale delle transizioni elaborate, quindi già acquisite dal sistema e visualizzabili dai partecipanti, di 4.300.000. L'importo totale del cashback, quello che riguarda il periodo natalizio, è di 17 miliardi di euro, mentre 17 milioni, scusatemi, mi sembra un po' tanto. Maturato è da 17 milioni di euro, mentre i cittadini con almeno 10 transazioni che già hanno diritto al rimborso sono già 150.000. Veniamo alla TAV, al di là degli scontri con le forze dell'ordine. Oggi il ministro De Micheli ha detto che non appena verrà approvato il contratto di programma, daremo un cronoprogramma preciso. Se viene registrato entro i primi sei mesi del 2021, il completamento dell'opera sarà al 2032 e creerà 8.000 posti di lavoro. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. E andiamo allora con il primo tema, la classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Allora molti dicono: guardi che la gente non ne frega niente, ragazzi. E questo è proprio il caso di scuola su quello che significa essere una collettività. Se qua ognuno pensa ai casi suoi, richiudiamo tutto, punto. Questo vuol dire che se abbiamo un'idea di comunità e non solo, diciamo, nei piccoli borghi, che vuol dire che i ristoratori dovrebbero impegnarsi per primi a far rispettare le regole, perché poi quando chiuderanno, chiuderanno tutti di nuovo. E la stessa cosa vale anche, è ovvio che se tu apri i negozi, un po' di shopping te lo becchi nel fine settimana. Bisogna capire però se uno è uscito per fare un acquisto, se è uscito semplicemente per farsi lo struscio. Ecco, magari lo struscio in sto periodo lo eviterei. Un conto è camminare da soli in un parco, un conto è ficcarsi in mezzo alle vie del corso, alle vie dello shopping, non lo so. Ma cos'altro dobbiamo dire? Poi ci sono dei misteri che restano, a parte che non vedo più nessuno che mi scrive sulla Svezia, dopo che la Svezia è nel panico più totale. No, io continuo a non capire, lo dico al ministro Franceschini, che stiamo cercando, come sia possibile adesso che avete riaperto, che l'Italia è tutta gialla, diciamo, tenere chiusi i musei. E non capisco quale sia il problema di contagio in un museo, dopo le immagini che ho visto. I musei lavorano con le prenotazioni, hanno un limite nelle sale, le sale dei musei di solito sono grandi, sicuramente più grandi di un bar o di un ristorante, e della sala di un bar o di un ristorante. Allora, di cosa, cioè, ci sono dei misteri della fede, no? Insomma, perché, me lo dico, non perché a parte il fatto che i musei costano comunque anche da chiusi, perché devi garantire la guardiania e le spese generali, ma dico perché sarebbe un modo per immaginare, non so, anche una didattica nei musei, dare un'alternativa allo shopping. Capisco benissimo che le categorie sono messe male, ma insomma un paese civile, un paese che apre le scuole e si occupa più delle scuole che delle piste da sci, e anche che cerca di riaprire i musei, che possono essere durante la settimana utilizzati anche dalle persone anziane che magari hanno occasione in più di offerta culturale, dagli studenti, si inventa anche delle formule alternative per fare lezioni. Le file all'esterno, ma dai, le file all'esterno non possono essere motivo di musei, con quello che abbiamo visto davanti a ristoranti, Torino, Milano, parlo delle città che non hanno mai state gialle da più di un mese. Qualcuno mi scrive sulla Svezia, cosa dici, fai schifo? Può andare a controllare le notizie sulla Svezia prima di scrivere a me, no? Terrorista sanitario, sì, vabbè, dai, ascolta. Ma io, se sono un terrorista sanitario, lei faccia una cosa, vada a fare un po' di volontariato, ce n'è bisogno, negli ospedali, poi vediamo come torna. Allora, Michela Finizio del Sole 24 Ore, buonasera Michela. Buonasera. Tu hai buonasera, coordinato ciao. Con tutti i colleghi, poi ci mancherebbe, l'indagine. È un grande team, sì. È un grande team, cioè, hai coordinato la ricerca di quest'anno della qualità della vita. Allora, prima di entrare nel dettaglio, ricordo che l'indagine analizza 90 indicatori, per la maggior parte dei quali circa 60 aggiornati anche agli ultimi mesi, e va a vedere nelle varie categorie come si distribuiscono i parametri usati per la classifica, li ricorderò. Ma le aree tematiche sono invariate: ricchezza e consumi da un lato, demografia e salute dall'altro, affari e lavoro dall'altro, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Dacci prima che parametri, diciamo così, da periodo Covid avete inserito. Sì, certo, ovviamente quest'anno era veramente difficile affrontare un tema come la qualità della vita, poi ci siamo accorti che dai nostri numeri in realtà a tutti i livelli questa pandemia parla di qualità della vita, in ambito sanitario, dai nostri indicatori proprio sul rapporto dei medici di medicina generale rispetto alla popolazione residente, fino ai dati sull'e-commerce, oppure ai dati proprio su, come dicevi prima, questi cinema e la spesa al botteghino che crolla da un lato, e dall'altra parte invece il boom di internet veloce. Quindi i nostri dati sicuramente prima di questa pandemia parlavano di qualità della vita, quest'anno minacciata, persa dal virus, però sicuramente ci dicono molto. Poi abbiamo fatto uno sforzo che era quello di analizzare in particolare 25 indicatori che secondo noi quest'anno raccontano molto in modo laser, insomma, quello che sta succedendo. E li abbiamo analizzati nel trend, cioè diciamo di quello che è successo nel 2020, perché come ricordavi abbiamo fatto lo sforzo di aggiornare i dati in tempo reale. Come sappiamo bene che i bilanci che verranno fatti più avanti non è ancora prematuro, però volevamo proprio raccontare la qualità della vita in tempo reale, come sta cambiando. E ci siamo accorti dai trend, prima di tutto quelli economici, ovviamente il pro capite che crolla del 7-6% come media Italia, ma più di tutti a Milano del 10%, ovviamente, perché è la città per ricchezza prodotta che maggiormente abbiamo sempre visto in testa. Dall'altra parte i depositi, che invece aumentano, i depositi delle famiglie, al sud in particolare, Ragusa in testa. Dall'altra parte invece ovviamente abbiamo città come dell'Emilia Romagna, che invece tendono ancora a consumare, a spendere, quindi questi depositi non hanno ancora questo tipo. Allora, scusami, vai. Dopo il... No, perché adesso il meteo, poi vorrei... Tu già hai anticipato, lo dicevo anch'io, c'è un tema Covid, l'indice dei casi Covid rilevati per ogni 1000 abitanti. L'unico indice che appunto è stato pesato maggiormente è... questo, perché sennò ogni parametro vale un novantesimo. E avete anche introdotto, e già non c'entra col Covid in senso stretto, però è stata una conseguenza del Covid, quindi il lockdown, anche la variabile dei metri quadri per abitante, giusto? Questo è un dato che sta parlando molto in queste ore, perché ovviamente siamo tutti chiusi nelle nostre case. Abbiamo fatto questo sforzo grazie a Scenari Immobiliari di raccontare con le statistiche catastali proprio quanti metri quadri abbiamo a disposizione nelle nostre abitazioni in media per famiglia, e sicuramente Napoli e Milano sono quelle che vedono meno metri quadri a disposizione, da circa 49 a Napoli e metri quadri per famiglia e 51 a Milano. Dall'altra parte invece abbiamo realtà di provincia come Rieti o altre province insomma più piccole, dove anche del sud, dove abbiamo visto appunto che i metri quadri sono a disposizione sono più elevati. Sta cambiando molto il mercato immobiliare e la domanda di case sta cambiando anche in questo senso, quindi la qualità della vita volevamo fotografarla anche con questo dato insomma. Allora, dopo il metodo ti chiederò invece appunto cosa ha mosso le aree metropolitane, cosa ha mosso anche le destinazioni turistiche, cosa ha fatto crescere Bologna su tutto, perché è il primo posto, ma in intera Emilia-Romagna, e anche altre città, anche Verona guadagna 4 posizioni, 3 posizioni, Udine ne guadagna 10, Cagliari ne guadagna 11, insomma ci sono anche altre cose. L'altro dato, che se il nord scende non è il mezzogiorno a scalare la classifica, è più il centro, appunto centro Italia o centro nord, come si dice dell'Emilia-Romagna, tant'è che la classifica quest'anno vede Crotone ultima e Caltanissetta penultima. L'anno scorso era l'opposto, ma poco è cambiato invertendo l'ordine delle città. Ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. C'è un ascoltatore che mi dice: lei ha perso il suo spirito critico nei confronti del governo e io sono sempre più indisposto verso i cittadini. Guardi, avevo appena criticato il commissario Arcuri perché da lui vorrei informazioni di trasparenza sull'approvvigionamento e non, diciamo, valutazioni su come comportarsi, lo fanno altri, e a breve torneremo sulla critica che sto facendo da una settimana al governo Conte sul ritardo e la, diciamo, opacità nella task force sul recovery plan, come verrà composta, come si fanno ad andare in conflitto con i ministeri e soprattutto i dettagli del piano. Se le sembra che sia troppo condiscendente, va bene così. 349-238-6666 per SMS WhatsApp. Focus Economia. Minuti. Allora facciamo una cosa, andiamo avanti con la qualità della vita. Io però non ho più, lo dico all'ascoltatore, quindi può continuare a scrivere. Se lei inizia un WhatsApp, io leggo anche soprattutto quelle di critica per poter rispondere, ma se lei inizia un WhatsApp dicendomi si rende conto che ci sono 1 milione di disoccupati, per fortuna ad ora sono meno, ma può essere che ci arrivino in più per un'influenza, io non ho più niente da dirle. Perché se lei non si rende conto che siamo il paese che ha più morti in Europa e se 60.000 persone, e basta con le balle, prendete le serie statistiche, andate a vedere gli morti negli ultimi 5 anni, 2015-2019, fate il paragone con i morti nell'ultimo, in quest'anno, ok? Quindi se per lei 60.000, più di 60.000 morti, ahimè, sono una banale influenza, io non ho più niente da dirle. Se non di non le auguro di prendersi la sua banale influenza, perché poi mi costa anche sul servizio sanitario, giusto? Quindi spero che lei semplicemente se ne vada da un'altra parte, io avrei un'idea su dove, ma non si ammali neanche di Covid, perché poi tocca pagare al servizio sanitario, quindi a noi che paghiamo le tasse, per la sua banale influenza. Allo stesso tempo, così cito Zaia 2 volte oggi, visto che l'ho criticato per altre cose, io sono d'accordo con il presidente Zaia. In conferenza stampa oggi ha detto: basta con la retorica, tanto è una malattia che colpisce solo i settantenni. Ma che vuol dire? Non è che possiamo dire: ah, tanto la poliomielite colpisce soprattutto i bambini che nascono. E allora? Cioè, di cosa stiamo? Ma vi siete impazziti veramente con questa retorica? Tanto se non hai 70 anni non muori. Allora? Ma neanche l'eugenetica era arrivata a tanto. Ecco qua l'altro genio: 60.000 morti sono il 10%, è un normale discostamento statistico. Senta, lei sa da cos'è discostato? Intanto si chiama scostamento, non discostamento. E poi l'errore statistico a casa mia è tra più o meno 5%, ma quelli non sono un errore statistico, sono morti veri. Lei è lei ha un discostamento, ma non statistico, con, diciamo, il cervello, glielo dico molto tranquillamente. Sulla Svezia, così oggi, ma oggi tutti io li ho i geni. Allora, sulla Svezia, notizia di ieri, i reparti di terapia intensiva di Stoccolma sono pieni al 99%, non lo dico io, lo dice il responsabile sanitario della capitale svedese, Björn Eriksson, chiamatelo, in una conferenza stampa. Dice sostanzialmente, ha detto lui, ci sono 814 persone che lottano per la vita negli ospedali, dobbiamo dire basta, non si può rischiare per gli aperitivi in Svezia, socializzare fuori casa, fare shopping natalizio, le conseguenze sono terribili. La Svezia ha delle percentuali dei morti che rispetto ai paesi limitrofi, Danimarca e Norvegia, sono a più del doppio, al triplo, ok? Però adesso basta. Michele Finizio, prima domanda secca, come mai la crisi attraverso gli indicatori, non valutazione tua, ha penalizzato di più le città metropolitane, a maggior ragione sono turistiche? Milano ha perso 11 posizioni, ma Venezia 24 posizioni, Roma 14 posizioni, Firenze 12 posizioni, Napoli 11 posizioni. Allora, sicuramente è un dato complessivo che probabilmente è frutto di un'erosione di alcuni indicatori nell'ambito di diverse categorie, perché come citavamo prima c'è sicuramente il dato della spesa al botteghino, in particolare sono colpite le città d'arte, non tutte proprio le città metropolitane ma quelle più turistiche, quindi forse proprio anche solamente alcuni movimenti negli indicatori, nella famosa media delle medie che poi è il risultato finale della nostra classifica, ha fatto sì che proprio queste città siano le più colpite. Diciamo che una costante che per esempio vediamo dal dato della densità abitativa, che è un dato che nella categoria demografia e salute vede sicuramente le città metropolitane in basso alla classifica, perché l'abbiamo considerato negativo questo indicatore, perché abbiamo visto quanto la densità abitativa sia correlata alla diffusione dei contagi. Mm-hmm. E quindi indubbiamente tra densità abitativa e spazio abitativo di cui abbiamo parlato prima c'è stato sicuramente una maggiore diffusione dei contagi e del tasso di mortalità, due indicatori che non potevano che non essere presenti nell'indagine di quest'anno, aggiornati agli ultimi dati disponibili, in novembre i casi Covid e agosto il tasso di mortalità grazie ai dati Istat. Ovviamente bisogna dire che c'è anche tutta la parte economica che parla, perché le città, abbiamo fotografato la diffusione della cassa integrazione, delle ore di cassa integrazione diffuse in rapporto alle imprese sul territorio, ovviamente ci sono grandi città colpite, ma anche e soprattutto la diffusione del reddito di cittadinanza, che l'abbiamo considerato certo. Un indice di povertà. E Milano trova, diciamo, da fine anno, fine 2019 ai dati di agosto dell'INPS, abbiamo visto addirittura un aumento degli assegni di reddito di cittadinanza del 40% a Milano. Quindi bisogna probabilmente nei dati delle grandi città, specie quelle turistiche, c'è appunto un effetto media delle medie che nell'ambito del nostro risultato finale porta a erodere un po' la qualità della vita degli anni precedenti. Probabilmente è questo. Sì, invece, dell'ultima domanda per te, vorrei parlare anche degli scatti di crescita, perché quando vedo che Verona recupera tre posizioni, anche Verona è una città turistica, Cagliari in parte turistica, ma comunque vive anche, insomma, come mai il recupero di Cagliari più 11 posizioni, Udine più 10, Verona più 3, cioè non è... E poi se mi dici anche come mai l'Emilia svetta non solo, diciamo, su Bologna ma su tutte i capoluoghi di provincia. Sì, Emilia appunto abbiamo 9 province su 5 province su 9 che esatto. Sembrano in miglioramento. Allora lì io credo che sia come sempre magari un po' la scelta di indicatori diversi e mirati quest'anno a misurare cosa è successo, un po' una performance probabilmente per esempio su Cagliari, mi viene da dire, ma perché lo so, perché in testa su demografia e salute ci sono dei dati proprio tra tutti quelli che abbiamo analizzato che hanno molto a che fare con anche proprio un indice di demografico positivo, abbiamo indici di vecchiaia più basso, abbiamo proprio dei dati anche di presenze di medici e pediatri sul territorio maggiori che in altri territori, quindi ci sono consumi di, per esempio Genova è un'altra che cresce molto. Mi chiedono di Torino, forse l'abbiamo dimenticata, chiedo Venia. Torino anche lì abbiamo visto dei dati positivi. Io adesso per esempio mi veniva in mente un risultato su Genova che ha l'ha premiata particolarmente, che è la diffusione della banda larga gli edifici coperti da tecnologia FTTH, che è la migliore per la connessione sul totale, e questo probabilmente fa parte di investimenti fatti negli anni che oggi vedono determinati risultati. Diciamo che ci sono piccole realtà innovative e più grandi risultati metropolitani che vengono fuori da questi dati. Ci sono realtà come Verona, duramente colpite sicuramente dalla parte turistica, probabilmente hanno nel settore ambiente e servizi determinate performance positive anche sui servizi delle pubbliche amministrazioni. Mi ricordo in particolare alcuni dati su proprio i servizi, gli enti attivi su PagoPA, che è una piattaforma ovviamente oggi dalle cronache abbiamo tanti servizi delle pubbliche amministrazioni sotto accusa, però sicuramente la semplificazione dei servizi digitali ma lo posso testimoniare. Allora, per quello che riguarda molti messaggi che arrivano, la Lombardia, guardate, c'è peggioramento non solo Milano che perde 11 posizioni, ma anche Sondrio e Mantova. Ripeto, c'è lo spazio abitativo medio a disposizione che penalizza Milano, ma c'è anche un crollo del PIL pro capite, perché là dove eri molto forte, è chiaro che il calo è più forte. Col massimo rispetto, è difficile per Crotone andare peggio, visto che se la gioca ogni anno, se non ricordo male, con Caltanissetta, giusto? L'ultimo po' Caltanissetta e Crotone. Allora, grazie, e poi tutta la classifica, noi possiamo solo sintetizzarla, ma insomma tutti gli indicatori e anche la classifica dentro la classifica, perché poi ogni città può essere nelle sei macro aree messo magari in posti molto alti e in altre aree in posizioni più basse. La trovate su Sole 24 Ore di oggi, grazie anche a Michela Finizio. Allora, la chiusura di borsa ha ritracciato un po', più 0,30%, Milano più 0,40%, Parigi più 0,80%, Francoforte, Londra meno 0,20%, conferma Atlantia anche peggio di prima, meno 6,24%, poi Unicredit meno 1,60%, Eni meno 1,5%, e invece Azimut più 2,5%, Interpump più 2%, più 1,80%, Pirelli più 1,70%, ricordati. Allora, adesso passiamo al governo, perché la prima delegazione che ha incontrato il Presidente del Consiglio, il Capo dell'Esecutivo, è stata quella del Movimento 5 Stelle alle 16.30. Alle 19 toccherà il PD, domani Italia Viva alle 13 e l'EU alle 19. Verifica è, quindi, e su questo diciamo ci sono pochi dubbi. Sentiamo invece Conte sulla task force, visto che tutto si è scatenato dopo la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della Task Force e la pubblicazione, diciamo, per sommi, estremamente sommi capi delle aree di intervento del recovery, e anche per quanto sommi, molti hanno lamentato la bassa dotazione della sanità, solo 9 miliardi, ma anche per la digitalizzazione delle scuole e la poca parte destinata a turismo e, come si dice, turismo e alberghi, il mondo che ruota attorno al mondo del turismo. Conte sulla task force. Si tratta senz'altro di un piano molto ambizioso, articolato, che oltre ad un'attenta pianificazione richiede anche un'attuazione più efficace possibile. Lo sapete, il governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura che sarà responsabile dell'attuazione, del monitoraggio del piano, e che potrà avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc per assicurare il pieno assorbimento delle risorse stanziate e la messa a terra di tutta la progettualità nei tempi più rapidi. Questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata, sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali. Gianni Trovati, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, Conte dice non sarà sovrapposta ai passaggi istituzionali, però io ti devo fare delle domande molto semplici, poi le finiamo anche dopo il GR24. Uno, se il piano è ambizioso, perché non sta trapelando nulla? Cioè, prima ho aperto il programma dicendo al commissario Arcuri, per favore meno inviti a come comportarsi e più rendicontazioni di come vanno gli approvvigionamenti, in questo caso di siringhe, dispositivi per il vaccino e quant'altro, laddove possibile più trasparenza ne dici come vanno le cose. Ecco, lo giro anche a Conte. Perché non si riesce a capire a che punto siamo? Perché Renzi ha bloccato tutto, ma Renzi dice guardate che non c'era niente, a parte la task force per lui inaccettabile, le serie di intervento sono vuote, lo dice anche Calenda, cioè, continuano a guardare l'esempio francese. Perché non sta uscendo nulla? Perché al momento l'ambizione deve ancora incrociare un accordo politico inevitabile se si vuole davvero fare un piano concreto e operativo, a prescindere da chi solleva il problema, e quindi senza un accordo politico ci sono le poche decine di paginette delle linee guida nuove che hanno un grado di definizione piuttosto basso e che già nei numeri chiave sollevano i problemi che dicevi tu prima. Se non c'è un accordo politico sulle priorità e sui numeri è ovvio. Ma chi è che sta scrivendo, non voglio sapere l'amanuense, ma insomma, qualcuno che c'è dentro il governo, immagino, non so, Gianni? Sì, no, certo, c'è il comitato, il CAE, il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, che è la sede tecnica in cui appunto si fanno tutti gli approfondimenti del caso, ma qui che a mancare non è al momento un'analisi tecnica dei fabbisogni, come dire, una radiografia, è una decisione politica su come vogliamo utilizzare, quale forma e quale senso profondo vogliamo dare a questo piano, e la sintesi politica sul tema ancora non c'è. Quindi una volta trovata quella, il lavoro tecnico che è imponente, che pure è stato fatto per la selezione, l'accorpamento eccetera eccetera delle varie proposte ministeriali, l'eliminazione e la bocciatura di molte di queste proposte ministeriali, deve poi trovare collocazione all'interno di un piano in cui la maggioranza dice vogliamo puntare su A, B e C. Allora Gianni, resta con noi, perché vorrei poi capire invece il tema appunto della task force, perché Conte dice non sarà sovrapposta, ma allora io non capisco, perché ho una forza superiore ai ministeri, però lì, oppure se deve fare tutti i passaggi istituzionali, che te serve? Prenditi un esponente dei vari ministeri coinvolti, fai prima. Cioè, veramente non sto capendo, ma nel senso proprio più etimologico del termine. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Unicredit Social Impact Banking. Dare valore alle donne, alle loro competenze e professionalità vuol dire realizzare una crescita economica e sociale preziosa per tutti. Per questo supportiamo con offerte dedicate l'imprenditoria femminile e le imprese che sostengono con i loro progetti le donne e la famiglia. Per info sui prodotti microcredito e finanziamento a impatto sociale vai su unicredit.it/ilvaloredellecdonne o chiama l'800 764 009. Unicredit Social Impact Banking, la banca per le cose che contano. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi sul sito e in filiale. Prodotti venduti da Unicredit SPA, che si riserva alla valutazione del merito creditizio. Dicono che l'Italia sia il paese in cui si mangia meglio. E come la mettiamo con il salmone che viene dalla Norvegia? Trovato. Prova Fjord. Il miglior salmone norvegese preparato con la vera passione italiana. Avere un negozio online può fare la differenza. È sempre aperto. Può aumentare la tua credibilità e far crescere le tue vendite. Trasmetti fiducia con il tuo e-commerce di proprietà. Vendere online è alla portata di tutti. Vai su aruba.it. Un luogo straordinario a ridosso delle Alpi, ricco di tesori d'arte e naturalistici. Una cultura antica dalla quale nascono vini pregiati, la cui vivacità accompagna da sempre i brindisi, dona piacere, leggerezza e gioia di vivere. Uno stile di vita inimitabile, riconosciuto in tutto il mondo. Un prodotto unico, capace di illuminare ogni attimo. Franciacorta, il brindisi per le tue feste. Very Italian, Very Franciacorta. Scopri di più su franciacorta.net. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. 18:08, notizia di poco fa, dopo la Gran Bretagna che ha annunciato che Londra torna mercoledì in zona rossa, anche l'Olanda si sta dirigendo verso un nuovo lockdown, riunione di emergenza per il governo, misure che saranno annunciate stasera dal primo ministro Mark Rutte in un discorso al paese. La situazione è molto grave e gli ospedali dei Paesi Bassi sono in difficoltà con 10.000 nuovi casi di coronavirus. Secondo la stampa olandese, il governo deciderà la chiusura di tutti i negozi che non vendono beni essenziali. E ricordo che mercoledì parte anche il secondo lockdown tedesco. Torno invece da Gianni Trovati per la seconda domanda e ultima sul recovery plan. Al di là appunto del... un ascoltatore mi chiede, ma la domanda non è peregrina, ma perché non si sono incontrati tutti assieme e fare un incontri, cioè, prima 5 Stelle, poi PD, domani Italia Viva e l'EU? Io aggiungo, si è capito in tema di task force come ne può uscire Conte? Perché insomma lui dice non sarà sovrapposta ai passaggi istituzionali. Io ho fatto la battuta, ma a sto punto se devi seguire ti conviene prendere un dirigente importante dei vari ministeri che sono coinvolti e mettere una task force, se no poi devi rifare il passaggio ministeriale. Cioè, non sto capendo nemmeno lì, ma veramente non capisco. Allora, gli incontri separati è perché lo prevede la ritualità della verifica di governo che presso il Presidente del Consiglio segue, diciamo così, un meccanismo plasmato sulle consultazioni al Quirinale quando c'è da formare un nuovo governo, e quindi toccherà al Presidente del Consiglio trovare la sintesi fra le proposte, le richieste, le istanze che i vari partiti della maggioranza metteranno sul suo tavolo. Come ne esce sulla cabina di regia non ne ho la minima idea. Evidentemente c'è stata una forzatura iniziale, un'accelerazione, diciamo così, nel presentare i numeri del piano e la struttura della cabina di regia in giorni nei quali già da un po' si parlava di un Conte in bilico, di una possibile crisi di governo, eccetera eccetera. Quindi accelerare mettendo le carte sul tavolo è stato un modo per dire sono saldamente in sella, sono al comando, questo è il piano. Naturalmente ha avuto un effetto collaterale non imprevedibile, cioè quello di far arrabbiare tutti quanti. Italia Viva in maniera più esplicita, ma in verità non è solo Italia Viva così che un giorno si è alzata e ha manifestato il malcontento, è in verità un problema più trasversale che riguarda anche larga parte del PD, non riguarda solo la cabina di regia, eccetera. Lì c'è da trovare un modo per creare una struttura di coordinamento che sicuramente serve. Diciamo che la nostra pubblica amministrazione non brilla nel suo passato recente per la capacità di attuazione di piani ben più modesti rispetto ai numeri messi in ballo dal recovery plan, ma come dire, bisogna trovare un equilibrio fra questa esigenza e l'esigenza di non creare una struttura parallela che gestisca il recovery plan, perché a quel punto uno si chiede a cosa serve avere un governo, i ministeri, i direttori generali, i capi di gabinetto, eccetera eccetera. Quindi bisognerà rivedere molto il progetto iniziale, naturalmente all'interno di un problema che è più ampio, che riguarda vari aspetti politici, su cui PD e Italia Viva in particolare, ma anche l'EU, chiedono maggiore condivisione al Presidente del Consiglio. Allora, no, è che lo dico senza polemica, ma si perde altro tempo in questo modo. Dopodiché speriamo che sia l'ultima volta. Io sono rimasto un po' sorpreso dal modo in cui il governo ha presentato, perché insomma, o veramente no, nel senso che sembrava che nessuno l'avesse visto, cioè presenti una task force di quel genere e delle divisioni così fatte un po' in maniera grossier, dei soldi e senza confrontarti con gli alleati. Ma tu hai capito questo, Gianni? Perché insomma, no, il problema è stato proprio questo, è stata un'accelerazione nella presentazione di un lavoro che era in corso ovviamente da settimane, però non bisogna confondere il piano tecnico, in cui c'è una struttura che sta costruendo tutta la documentazione che serve per presentare un recovery plan fatto e finito, diciamo così, e invece il lavoro politico, che è quello di mettersi d'accordo. Nel mondo normale l'accordo politico precede il lavoro tecnico, cioè la politica detta le linee guida e i tecnici si mettono al lavoro per realizzarle, ma diciamo che di normale, di razionale, questo scenario ha ormai poco, quindi stupisce solo fino a un certo punto il fatto che all'apparenza si sia seguito un percorso contrario. Naturalmente quello presentato in accelerata, mandato alle 2 di notte nella posta certificata dei ministri, non è il recovery plan finale, è un documento piuttosto intermedio, con uno stato di avanzamento del piano che è ancora piuttosto parziale e iniziale rispetto per esempio ai documenti elaborati dalla Francia, che hanno un grado di definizione molto più elevato. Ma sai, in Francia, lo dicevi anche tu in qualche puntata fa, è molto più facile perché lì tanto chi è la cabina. Poi mi ripeto ogni volta, ma io continuo a non capire perché non si sia fatta una scelta più semplice. Ministero Economia e Finanze con delega anche a Ricoveri, un super commissario come in Francia, grazie, arrivederci. Adesso, e poi parliamo dei progetti veri, di come si tirano giù i progetti. Qui siamo ancora, diciamo, a chi deve entrare nella stanza dei bottoni. Grazie a Gianni Trovati. E adesso invece vorrei, prima di arrivare sul traffico, andiamo sul traffico. Focus Economia. Dietro la notizia. Allora, torna come ogni lunedì Dietro la notizia con Alessandro Paterotti, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo con te del, dicevo io in apertura di programma, di quello che a me sembra il termometro più affidabile per misurare la borsa e il singolo titolo in borsa, che non è la variazione percentuale to cure, se è cresciuto del 30, del 40%, se è cresciuto troppo oppure se è calato del 20-30. È un indicatore che spesso dimentichiamo, che è il rapporto prezzo utili attesi, quindi certo. Si divide il prezzo del titolo per gli utili per azione della società. Ecco, alla luce di questo, che cosa hai scoperto tu guardando le quotazioni di borsa, che alcuni dicono è troppo alte oppure troppo ottimistiche? Qual è il rapporto PE? Prego, come si chiama in gergo? È straordinario, oggi con i nuovi guadagni che sono stati emessi oggi, la situazione è ulteriormente peggiorata sotto questo profilo. Perché? Perché quel rapporto che tu dicevi, il rapporto prezzo-utile, che cosa serve? Serve a misurare la ricchezza relativa generata da un titolo rispetto a un altro o rispetto a un altro settore. È l'unico modo che l'investitore ha, anche l'investitore piccolo, ha per verificare se un titolo è attraente o meno. Quando diciamo attraente, ricordiamo che non si tratta del titolo che costa meno, ma del titolo che costa meno rispetto agli utili che ha. È importante questo, certo. Capirlo. Cioè, allora, quanto tempo ci metti a ripagare, diciamo? Esattamente, ecco, la formula che usano gli analisti è questa, sostanzialmente il multiplo, il risultato di quella divisione di cui tu parlavi, indica che cosa? Quanti anni dovrà aspettare l'investitore, anni di profitti cumulati per giustificare quel prezzo di borsa. È un termometro il più affidabile e il più antico. Beh, il risultato è straordinario, perché un po' riflette quello che abbiamo discusso in questi giorni, ovvero la forza del settore tecnologico, la debolezza relativa del settore industriale tradizionale. Ma partendo un po' dagli indici, che forse è la prima cosa prima di parlare dei titoli specifici, le sorprese non mancano. La prima è il Nasdaq. Alla chiusura di oggi saranno circa 80 anni di profitti cumulati per giustificare l'attuale livello di quotazione del Nasdaq, di capitalizzazione del mercato. 80 è un record fra i mercati finanziari. Teniamo presente che lo Stoxx 500 Europa, cioè che l'indice che racchiude i titoli europei, in questo momento scambia circa 50 volte gli utili cumulati, ovvero ci vorranno 50 anni per giustificare la capitalizzazione dei titoli europei. Se andiamo a guardare sui titoli, il fenomeno... Oh cazzo! No, attenzione, pronto? È caduto qualcosa? No, dico, è vero che il programma che segue ci ha abituato anche altri... Alessandro, ci sei? Pronto? Che è successo? Pronto? No, noi ti sentiamo bene. Piccolo. Pronto? Noi ti sentiamo bene, pronto? Eccomi, scusatemi, c'è stata un'interferenza. Sì, beh. Dicevo, se andiamo a guardare i titoli individuali, diciamo, singoli, per capire un po' come vanno, lì le sorprese sono ancora maggiori. Se andiamo a cominciare dal titolo più, in questo momento più gettonato, che è quello di Tesla, di cui parliamo spesso, lì la situazione è impressionante, perché ai prezzi attuali, che sono oltre $130, ci vorranno circa 966 anni di profitti cumulati per giustificare l'investimento fatto attualmente. Cioè, chi compra oggi, su base economica, lo fa credere credendo che fra 966 anni la Tesla sarà in grado di generare profitti che giustifichino questo prezzo attuale. Se andiamo a guardare alla, ad esempio Facebook, siamo intorno a 90 anni di attesa per andare, ma addirittura se passiamo su altre icone della new economy come Alphabet arriviamo a 132 anni per giustificare il livello dei profitti. Questo dà un po' l'idea di che cosa? Un po' del, diciamo così, della febbre speculativa che è andata oltre misura, e in più anche della nuova propensione, della maggiore propensione degli investitori a puntare su titoli che hanno un, una promessa di compensare quello che chiedono in termini finanziari di qui al secolo prossimo, addirittura al millennio, come nel caso della Tesla, come dicevo. Che cosa possiamo fare allora per difenderci e soprattutto per capire? Intanto cominciare ad andare a guardare e farci un'idea di che cosa significa questo livello. In termini generali, quando abbiamo un price earnings che è inferiore ai 20-30 punti, vuol dire che un titolo è un titolo industriale, cioè un titolo che crea valore e che non fa crescita del prezzo nel breve periodo. Al contrario, più è alto il price earnings, va intorno al 100 come moltiplicatore, 80-90, più quel titolo indica che il prezzo potrà crescere molto rapidamente, ma certamente nel lungo periodo sarà soggetto comunque a grande volatilità e a forti oscillazioni. Questi sono pochi consigli pratici che si possono avere, soprattutto per farsi una ragione di questo rally e per capire che cosa, se quelle azioni che abbiamo comprato anche come investitori individuali, perché ricordiamo che in Italia la quota di investitori individuali è una delle più alte d'Europa ancora. Ecco, eh? Alessandro, per rispondere, insomma, anche fare questi questi piccoli accorgimenti. Per rispondere all'ultima domanda, ecco, tu citavi già il Nasdaq a livelli mai visti prima, 80 anni per ripagare tutti i titoli liquotati con i loro dividendi di investimento. Ma in generale la domanda di fondo, è esiste una bolla guardando lasciamo stare i singoli titoli, guardando i valori di borsa o no ancora? Assolutamente, cioè in questo momento è bolla perché sia perché quel famoso rapporto prezzo utili di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, che cosa è? È ai livelli di massimo storico, quindi è evidente che a fronte di una situazione congiunturale che non promette ancora nulla di buono per il 2021 e infatti si prevede una dinamica dei profitti inferiore a quelle che erano le stime iniziali, perché finché l'emergenza non finisce, quello è un indicatore di sopravvalutazione del mercato. Attenzione a incrociare sempre, come abbiamo discusso nell'ultima trasmissione, anche quelli che chiamiamo asset intangibili, ovvero la materializzazione della ricchezza della società. Quello, insieme al rapporto prezzo-utili, e attenzione perché le due cose sono molto collegate, dà l'idea se un titolo è un titolo sicuro oppure un titolo su cui si rischia per guadagnare. Allora, grazie, sono Praterotti. Qualcuno mi chiede ma di chi era l'interferenza. Ragazzi, non era un lord inglese che ha fatto l'interferenza, diciamo così, è sfuggita, chiedo venia io, dopodiché fra 10 minuti non ci sarà neanche più bisogno di chiedere venia. Grazie Alessandro Praterotti. Ultimo tema, mi interessa anche un po' alleggerire, se così possiamo dire, perché l'esperienza del lockdown marzo-aprile e poi anche quest'ultimo secondo giro è chiaro che ha portato un altissimo consumo e anche una vera e propria guerra nello streaming. E lo streaming vuol dire che ormai le piattaforme ti permettono di costruirti il tuo palinsesto televisivo. Sappiamo che c'è una grossa disaffezione soprattutto nelle fasce più giovani per la TV intesa come palinsesto. Il televisore diventa un device, cioè trasmetti lì quello che hai già scelto, utilizzi lo schermo televisivo come utilizzeresti in un'altra situazione l'iPad o il tuo schermo del computer o del telefonino. Perché lo dico? Perché oggi c'è una partnership pluriennale annunciata tra Sky e Amazon proprio sul tema della convergenza delle piattaforme. Riguarda Regno Unito, Irlanda, Germania e Italia. Dunque, qualcuno mi chiede ma l'astrologa, sì, l'astrologa verrà con Giovanni Tamburi, e chi se la perde quest'anno dopo che l'anno scorso ci aveva spiegato che sarebbe stato un 2020 difficile tra gennaio e febbraio? L'abbiamo fatto anche ascoltare, speriamo. Allora, qualcuno mi scrive di San Marino, ma San Marino ha deciso, sta proponendo che chi non farà il vaccino si pagherà in caso di ricovero le sue spese Covid. Beh, mi sembra una misura che lascia la libertà di non farsi il vaccino, però responsabilizza molto anche se poi devi ricadere sul sistema sanitario. Allora, Andrea Biondi, del Sole 24 Ore. Buonasera, Andrea. Buonasera. Dal 14 dicembre, chi ha un decoder Sky Q o un abbonamento a Now TV potrà scaricare l'applicazione Amazon Prime Video. Viceversa, chi ha dal primo, dall'inizio 2021, chi ha un dispositivo Fire TV di Amazon potrà scaricare l'applicazione Now TV di Sky. Due domande secche: è gratis o devi comunque fare i due abbonamenti? E B, cosa vuol dire questa convergenza di piattaforme? Eccoci, allora, non è gratis, nel senso che occorre fare due abbonamenti e non mi sembra che ci sia un'offerta commerciale congiunta, se non per quanto riguarda Amazon, i 30 giorni di prova. Però è un tema che in qualche modo è sottovalutato, ma a mio parere in maniera erronea, cioè nel senso, la facilità d'uso è una cosa molto importante, cioè avere su un decoder la possibilità di passare dalla visione di Sky alla visione dei contenuti di Amazon Prime o di Netflix, tutto con lo stesso telecomando, senza dover, diciamo, spegnere, andare sul tablet e via dicendo, è una questione comunque importante. Così come è importante perché, come dire, c'è un mondo di contenuti che ormai è diventato abbastanza strutturato tra Amazon, Netflix, la stessa Sky. Ecco, metterli insieme e dare, diciamo, all'utente la possibilità di scegliere muovendosi con facilità è una cosa molto importante. È lo stesso principio, se vogliamo, che ha portato i Mac. Ti faccio una domanda un po' maliziosa, ma questa è perché sì, all'interno della difficoltà che ha la TV, e mi riferisco al palinsesto tradizionale, la TV, diciamo, per come l'abbiamo sempre conosciuta noi, che è una certa ora in onda un programma e c'è tutto un palinsesto che segue. Questa difficoltà inizia ad averla anche Sky, nel senso, cioè, ha bisogno, sente la concorrenza delle piattaforme in cui sostanzialmente la TV è on demand, nel senso che tu scegli cosa vuoi vedere e poi te lo proietti, ripeto, sullo schermo che vuoi? È sicuramente un modo in cui non viene fatta una lotta frontale, ma un accordo. Un accordo per sfruttare una peculiarità che significa anche un modo in cui Sky immagina il suo futuro, cioè quello di essere anche un hub tecnologico di contenuti, vale a dire dare la possibilità all'utente di fruire di questi contenuti in maniera molto semplice. Dico però un'altra cosa: per esempio in Inghilterra questa stessa cosa permetterà di vedere a tutti, diciamo, quanti gli abbonati di Sky, di BT, di Amazon, la Champions League senza uscire dalla visione, diciamo, del decoder. E in un momento in cui anche in Italia si sta discutendo del rinnovo, certo, dei diritti, è importante avere la possibilità di poter fruire di quei contenuti in una maniera unica, poi pagando tre abbonamenti, quella è la verità. Però, come dire, da una parte c'è anche la facilità d'uso che ha una sua importanza, che è appunto la convergenza di cui parlavamo. Grazie anche Andrea Biondi del Sole 24 Ore. No, non è stato Cruciani a fare l'interferenza di prima, ha tante colpe, insomma. Questa volta no, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.